18, 18 minuti e 55 secondi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 mattino, lunedì 7 dicembre. Al microfono sempre Simone Spezia. E vi aspetto al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp, e all'800-24-00-24 se vorrete intervenire in diretta. Alle 8.35 avremo ospite Giuseppe Provenzano, il ministro per il Sud e la coesione territoriale, e poi sarà con noi Serena Sorrentino, la segretaria generale della funzione pubblica della CGIL, perché vi ricordo che mercoledì ci sarà lo sciopero dei dipendenti pubblici che protestano per avere più risorse per il rinnovo del contratto, tra, come potrete ben immaginare, mille polemiche, le proteste tanto da parte del governo quanto da parte di un pezzo importante di opinione pubblica. È il momento, come sempre, però, del punto di giornata con il nostro Paolo Mieli. Paolo, buongiorno. Eccomi, buongiorno, buongiorno. Allora, cosa oggi hai visto? Sai, il personaggio del giorno è collettivo, è la folla, perché io sono partito da questa cosa che mi ha fatto molta impressione, la disfida del Pincio. Due tredicenne si sono lanciate una sfida, vediamoci il Pincio, sul Gossip de Roma, che si chiama così il sito, sì, da cui si sono lanciate la sfida, e sono presentati centinaia e centinaia al Pincio, una delle due tredicenne tra l'altro non c'era, credo, e se ne sono date di santa ragione. È dovuta intervenire la polizia, ovviamente senza mascherina. Contemporaneamente 3.000, sempre a Roma, 3.000 all'Euro si sono ritrovati all'improvviso, lì non si sa, e contemporaneamente a Riccione, come avrei visto, si sono accese tutte le luminarie, e contemporaneamente Zaia si è detto preoccupato perché ha visto assembramenti in tutta la sua regione, oggi lancia un allarme da Repubblica, e contemporaneamente a Londra, da Harrods, c'è una folla, ci sono delle foto che veramente fanno impressione, e contemporaneamente a Verbier in Svizzera sulla funivia c'è una calca. E guarda, io ci metterei dentro anche una cosa che mi ha colpito a Vibo Valentia. C'è stata una manifestazione, quella credo di congiunti, familiari, di solidarietà a un boss latitante, Rosario Pugliese, arrestato, applausi, festa. Questa non fa parte di quella famiglia delle folle di cui ti ho appena parlato, però erano tutti senza mascherina dappertutto. E c'è qualcosa di strano nell'aria, c'è qualcosa di strano nel senso che era prevedibile, no? Che una volta mollate certe disposizioni piuttosto dure, la folla si riversasse. Poi del resto forse era anche auspicato, perché se uno apre i negozi per fare acquisti, certo, poi ovvio, poi la gente ci va nei negozi, no? Esatto, ci va, e non è che ci va per appuntamento, però c'è qualcosa di disordinato che si riflette nei presidenti delle regioni. Avrei visto Marco Marsiglio, ne avrei già parlato, quello dell'Abruzzo, che dispone lui, dice: la nostra regione da rossa passa ad arancione. Doveva passare mercoledì il grande lite col ministro Boccia, ma lui ha deciso così. Contemporaneamente Eugenio Giani, presidente della Toscana, dice: da noi, guarda, ho cambiato disposizione, si può andare dal barbiere anche in un altro comune, in un comune vicino. È così. E in Lazio e in Emilia Zingaretti e Bonaccini si rivolgono all'Europa e che dicono: vogliamo essere coinvolti come regioni nel recovery fund. Si dà il caso appunto che Zingaretti poi sia il segretario di uno dei due più importanti partiti di governo, insomma, quindi c'è qualcosa nell'area disordinato. E Bonaccini l'uomo forte di quel partito comunque, no? Quindi... Esatto, e l'alternativa a Zingaretti, tra l'altro, nel caso in cui dovesse cadere Zingaretti. E questo si lega al recovery fund. E di proposito, non sono partito i due ministri renziani che hanno abbandonato la riunione perché dicono che quella task force fa schifo, 300 persone, anche fossero solo 150. Carlo Cottarelli dice: almeno metteteci qualche donna prima, invece di fare prima di accorgervene dopo, che non ci sono donne. Hanno dovuto infilare e allargare il numero di queste donne, insomma, se ne vanno. I anziani danno l'impressione, perché nella cabina di regia loro non sono coinvolti, e quindi io, che sono malizioso e sospettoso, penso che chiedano più in generale un loro coinvolgimento, sì. Però non è che vogliono fare una crisi su questo. La crisi che ormai si farà sul MES, sì. Sì, decisamente. Paolo, guarda, ti do la mia lettura. In parte abbiamo già fatto l'altro giorno, anzi hai fatto molto più autorevolmente di me tu l'altro giorno, no? Che alla fine scatta il disordine perché la pandemia allenta un po' la morsa e quindi si riparte con le task force, si riparte con la discussione sul fondo salva stati, il che manda in confusione anche il capo momentaneo del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, che ieri ospite di Luciana Annunziata in mezz'ora, io non so se l'hai sentito, ma fa questo discorso, io non l'ho capito, però prego. Questa riforma è una riforma che parte da oltre 4 anni, sì. E cerca di cambiare questo MES. Non ci piace la riforma, anche questo vorrei chiarire, perché qualcuno pensa abbiamo detto sì alla riforma. No, questa riforma non ci piace. Ma mentre a dicembre del 2019 potevamo permetterci di fare un ragionamento e dire questa riforma non ci piace, quindi assolutamente no, oggi siamo dopo un anno in cui abbiamo una crisi pandemica che ha investito tutta l'Europa, un anno in cui l'Europa ha dimostrato di essere in grado di mettere in campo strumenti nuovi, dimostrando quindi anche, diciamo, l'inefficacia dello strumento MES. Quindi oggi noi dobbiamo guardare avanti, per cui questa riforma è un modo un po' per chiudere un capitolo e abbandonare questo vecchio MES, ma anche questo nuovo, che ripeto non è che cambi molto, non ci piace neanche questa nuova configurazione, per parlare di futuro, per parlare di quelli che sono i nuovi strumenti. Questo MES va riformato definitivamente, completamente, per trasformarlo in un'altra cosa. Tu hai capito qualcosa, Paolo? Mamma mia, no, è meglio la folla del Pincio, sì, guarda, direi. Perché non si capisce assolutamente niente. E tutti o quasi tutti coloro che dicono anche nei giornali, tu vedi adesso, di votare per questa riforma del MES, premettono, fermo restando che questa riforma non ci piace, ci fa schifo, come sì. Recita il titolo di un articolo sul Domani, un giornale di sinistra, il giornale di Carlo De Benedetti, si scrive fondo salva stati, si legge fondo salva banche di Giovanna Fagionato. Beh, non piace a nessuno, ma lo votano così per i motivi incomprensibili o insomma o difficilmente comprensibili di cui ha parlato Vito Crimi. Comunque, secondo me, di insidie vere e proprie non ce ne sono, perché i 5 Stelle sono messi una paura, sono rimasti a votare contro 5 o 6 adesso di quelli lì, e comunque se voteranno contro è pronta una pattuglia oggi sui giornali. È pieno di interventi, Gaetano Quagliariello, che da destra dicono che voteranno sì, Andrea Cangini, Gaetano Quagliariello, la moglie di Mastella, Sandra Mastella, e Andrea Marcucci, il capo dei senatori del PD, dice: ma io non sto tramando contro IDM, il governo e il governo, state tranquilli, insomma è tutta una cosa, sì. Attenzione, sì. Attenzione, perché poi l'Europa osserva più che il risultato finale, che non gliene importa un bel niente, osserva anche come si sta muovendo questa classe dirigente, si sta muovendo in maniera scomposta, sì. Speriamo che non senta nessuno in Europa quell'audio che hai trasmesso, dai, in fondo, di Crimea, se, se, filino... non lo trasmettere mai più, ma perché un... quello dà una... Perché poi non ci danno, cioè, non ci danno i soldi del recovery se lo ritrasmette. Non ci danno più i soldi del recovery, guarda che la situazione poi... È preoccupante, perché ti ricordi, io ho sempre un occhio sulle piazze orientali, lì il premier giapponese Yoshihide Suda ha detto che è iniziata la terza fase, che loro hanno il record di anziani, il 28% della popolazione, ha dato un allarme e ha messo disposizioni per la terza fase, è iniziata anche in Corea del Sud, che sono i posti dove sembrava che tutto fosse finito. In Turchia hanno proclamato il lockdown fino a Capodanno, insomma, questo è unito alla folla da Erroz e alla ressa della funivia di Verbieti da un quadro internazionale. Non po' la misura. Esatto. Cambiamo argomento, Paolo. Mi ha colpito un po', il tema ricorre sempre, se vuoi ci troviamo così tanto spesso a parlare di questi argomenti, perché questi argomenti ovviamente ricorrono nell'ambiente culturale, nell'ambiente universitario, cioè che cosa si può dire o non si può dire per esempio in una lezione universitaria, per esempio in un grande college come quello di Eton, che ha formato metà della classe dirigente britannica. C'è un caso che sta esplodendo, sì. No? Sì, è un famoso caso che sta sui giornali inglesi, è quello di Will Noland, che è un professore universitario famosissimo, che ha fatto una lezione sul patriarcato in modo molto politicamente scorretto, cioè dicendo adesso vi spiego perché il maschio domina da 3.000 anni. Questa lezione è andata su YouTube, gli hanno chiesto i dirigenti di Eton di ritirarla, lui non l'ha ritirata, lo hanno licenziato, ma gli studenti incredibilmente sono mossi, hanno fatto una petizione molto firmata, molto numerosa, perché torni a insegnare. La prima volta però il ministro Gavin Williamson, che è il ministro per l'istruzione, ha preso le distanze. Ricordiamoci che quello è un governo conservatore, quindi non è un ministro favorevole al politicamente corretto, e ha detto anzi che a Eton, che come è noto è un'università un ateneo per soli uomini, per soli maschi da sempre, vengano aperti i corsi di ragazze. Contemporaneamente, sai, a me mi ha impressionato anche un'altra notizia, che Timnit Gebru, te lo ricordi, è quella studiosa americana di origine etiope che sta denunciando su Google, sta denunciando le discriminazioni che esistono su Google, le discriminazioni indirette, un lavoro importantissimo, così è stata licenziata, e anche lì si è aperta una battaglia per rimetterla dentro, qualche giornale ne parla. E insieme del caso, insieme al caso di Patrick Zaki, che oggi avrà la sentenza, speriamo che finalmente sia liberato in Egitto, questi sono così, i fatti rilevanti fra tanti altri. Fra tanti altri. Potrei parlare, hai ore e ore perché io possa continuare a parlare. No, devi dirmelo adesso, tu. No, ore e ore. Chiudiamo, ci risentiamo domani mattina, caro Paolo, perché noi siamo regolarmente in onda, anche se la trasmissione inizierà un po' più tardi, alle 7:15. Domani me la prendo comoda, giorno di festa. Anch'io posso prendermela comoda. No, tu sempre alle 8:15 qua. Tu sempre alle 8:15 qua. Paolo, a domani. Ciao. Ciao, a domani. Ed eccoci qua in mezzo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, a questa tensione politica che torna a salire un'altra volta. Caro Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la coesione territoriale, un'altra volta i temi sono più o meno sempre gli stessi. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Eccoci qua. Allora, secondo lei il governo, cioè voi, siete a rischio con il voto di mercoledì, il voto che ci sarà sulla relazione del Presidente del Consiglio prima del vertice europeo che dovrà decidere sulla riforma del MES, oppure no? Stando alle dichiarazioni dei vertici del Movimento 5 Stelle che oggi Di Maio, ci sarà la maggioranza, e del resto sarebbe grave se non ci fosse, perché il Presidente del Consiglio non può andare in Europa senza un mandato chiaro di una maggioranza parlamentare. Questo è il punto che noi abbiamo detto con molta chiarezza, rispettando ovviamente tutte le discussioni interne. Peraltro voglio precisare che in questo caso non si tratta dell'utilizzo del MES, ma della sua riforma, una riforma lungamente negoziata in Europa, che per cui vale anche un pezzo di credibilità del nostro paese su come si sta nel consesso europeo. Sull'utilizzo del MES deciderà il Parlamento, ma anche su questo si discute dello strumento e non del fine, cioè il fine è potenziare il nostro sistema sanitario nazionale, e lo abbiamo visto quanto sia necessario durante questa pandemia. Per il raggiungimento di questo fine si deve discutere di tutti gli strumenti senza alzare bandiere ideologiche, come vedo si continua a fare. Nel caso non ci fosse la maggioranza mercoledì, ritiene che a questo punto il governo debba cadere? Guardi, il Presidente del Consiglio non può andare a un Consiglio europeo senza il mandato di una maggioranza chiara, questo è evidente, cioè, quindi diciamo, chi si assume questa responsabilità eventualmente ne trarrà le conseguenze, ma è quello che credo che tutte le forze politiche stiano capendo e che sarà chiaro da qui a dopodomani. Vedremo dunque che cosa succederà in Parlamento, perché poi sarà il Parlamento a decidere. Nel frattempo sull'altro c'è un altro tema sul quale si sta alzando la tensione, no, Ministro? Ed è quello della struttura per l'elaborazione dei piani per il Recovery Fund, per Next Generation EU, ossia i famosi fondi europei. Si era partiti da un'ipotesi che era circolata di questa mega struttura con 6 manager e 300 persone sotto. Adesso vediamo dai giornali che si sta passando una struttura più snella, con una novantina di persone complessivamente. Qua c'è una certa tensione, una certa protesta che arriva da Italia Viva. Ci può dire che idea avete voi del Partito Democratico, che idea ha lei come ministro su questa struttura? Ci deve essere o bastano i ministeri? Bastate voi? Questa struttura ci deve essere, ma mi lasci dire prima una cosa. Anche in riferimento a come hai esordito lei, vede, insomma, noi negli ultimi giorni abbiamo avuto oltre 2500 morti per il Covid. Di fronte a una tragedia nazionale come questa, c'è in gioco la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Questo rumore di fondo continuo, la ricerca di distinguo per ragioni spesso di visibilità, stanno dilapidando questo patrimonio già fragile, e io credo che la polemica continua, addirittura sui cenoni che è stata fatta sull'apertura il 26, il 25 dei comuni, diciamo, rispetto all'esigenza di restringere per piegare questa curva, per dare la risposta all'emergenza sanitaria da parte di un pezzo della maggioranza, sia francamente deprimente. Questa è la premessa che mi porta a dire che questo governo e questa maggioranza parlamentare hanno un'occasione straordinaria con il Recovery Fund, e che per esigenze di distinguo continue e anche di visibilità non può essere messa in discussione. Già noi abbiamo Orban che ci sta frenando nella grande opportunità di innescare una ripartenza dopo la crisi drammatica che stanno vivendo le nostre imprese, i nostri lavoratori e tutti i cittadini. Ecco, su questo, diciamo, dividerci per ragioni appunto di visibilità sarebbe molto grave. Però questa struttura di missione, per risponderle appunto, questa struttura di missione, cioè richiamare le task force, non c'entra proprio nulla. È la Commissione europea che chiede all'Italia, come a tutti i paesi, un meccanismo non ordinario per spendere nei tempi previsti, che sono molto stretti, una quantità di risorse importante che il nostro paese ha necessità, diciamo, assoluta di trovare un meccanismo certo, perché purtroppo nel corso dei decenni non ha dato grande prova di rapidità e di capacità di spesa. Però, Ministro, che dimensione deve avere questa struttura? Secondo lei? Il tema non è la dimensione. Vabbè, Ministro, posso? Si fa obiettare solo una cosa, ossia la struttura è importante, perché se tu metti insieme una struttura pletorica in termini di dimensioni, poi arrivare alle decisioni, poi comunicare con i ministeri, comunicare poi con la Commissione, diventa tutto un po' più complicato, non pensa? Guardi, noi abbiamo un'amministrazione pubblica che nel corso degli anni si è impoverita di risorse, soprattutto di giovani, soprattutto di competenze tecniche, e questo è il lavoro che noi dobbiamo fare per essere in grado poi di realizzare gli investimenti. Invece abbiamo in questo caso la necessità una struttura che si colleghi con le altre, nessuno, i numeri li ho letti sui giornali, diciamo, la discussione del governo non sta riguardando i numeri, che si vedrà sull'analisi dei fabbisogni che si metteranno, che saranno necessari, frutto anche di un'interlocuzione appunto con i ministeri. Il punto è avere dei responsabili per le grandi linee di intervento che ci siamo dati, che abbiamo scelto con il recovery, che sono 6 e che discuteremo oggi nel Consiglio dei Ministri, affiancati da persone che stanno nella pubblica amministrazione, e perché no, persone che fuori dalla pubblica amministrazione vogliono prestare questo servizio, che è un servizio pubblico, una missione civile nel corso di questi anni per realizzare il recovery, e di cui abbiamo automaticamente bisogno. oggi la nostra amministrazione pubblica non è nelle condizioni di o non dà certezze nella capacità di spendere in tempo quelle risorse. Questo è il punto da cui siamo partiti. Non c'è nessuna task force generalizzata, non c'è nessuna struttura parallela, c'è una struttura di missione che è, non sono passanti, diventeranno nel momento in cui si siedono in quella struttura dei funzionari pubblici che renderanno conto al governo, ai ministri, alle amministrazioni competenti e che le supporteranno. Le supporteranno in cosa? Nel fare due cose che nel nostro paese purtroppo negli ultimi tempi non si riescono a fare molto bene. La progettazione degli interventi, la progettazione esecutiva, perché poi è questo quello che fa la differenza tra stanziare la messa a terra, la famosa appunto, messa a terra è quello il grande tema, no? I bandi, le gare, eccetera. Questo è un lavoro che obiettivamente va coordinato ed è un bene che sia coordinato dal centro, senza scavalcare nessuna competenza dei ministeri. Quindi io davvero penso che quando oggi usciremo dal Consiglio dei Ministri con una proposta chiara, faremo davvero giustizia di molte delle sciocchezze che sono state dette anche nel corso degli ultimi giorni, le task force eccetera. Non c'entra assolutamente nulla, si tratta di come organizzare la nostra amministrazione per spendere bene e soprattutto in tempo queste risorse. Non avremo un'altra occasione. Me la faccia mettere un po' brutale, di questi 209 miliardi, visto che lei è ministro per il Mezzogiorno, che quota andrà al Sud? Il Sud per legge ha diritto ad avere una quota di investimenti che sia proporzionale alla sua popolazione di riferimento, quindi almeno il 34% deve andare al Sud, ma io penso che in alcuni settori, è la discussione che faremo oggi, questa quota sarà superiore. Per esempio sui deficit infrastrutturali noi abbiamo la necessità di colmare un divario superiore, però il tema non è tanto della quota delle risorse, ma è della qualità dei progetti che mettiamo in campo, perché queste risorse non sono un assegno in bianco che viene staccato all'Italia o ai singoli territori, ma vengono attribuite sulla base della progettualità. Le dico per esempio qual è il progetto bandiera sul quale soprattutto io sto lavorando in questo recovery, perché poi anche qui si è parlato di 600 progetti. Non mi dica il ponte sullo stretto. Il sospetto è fondato, no? Glielo dirò. Le dirò invece, per esempio, che noi abbiamo la necessità di rafforzare un sistema nel Mezzogiorno che crei innovazione tecnologica, produttiva e anche sociale. Ci sono esperienze che hanno funzionato, per esempio San Giovanni a Teduccio a Napoli è un polo tecnologico che rappresenta una best practice in tutta Europa nell'utilizzo anche dei fondi europei. E allora che cosa vogliamo fare? Replicare questo modello, che significa partire dai centri di eccellenza universitari e della ricerca, da alcune filiere produttive, e replicarlo in tante città del Mezzogiorno, o nel Mezzogiorno 8 per partire, nelle quali innescare anche processi di rigenerazione urbana, perché lì è straordinario. San Giovanni era un quartiere marginalizzato, in grande sofferenza, e attraverso questo investimento c'è stato un percorso di riqualificazione sia urbana ma anche sociale, perché poi in quella sede le associazioni del terzo settore, le reti di cittadinanza usufruiscono di quegli spazi e diventano protagonisti. Il concetto, ministro, è più progetti simili a quello, in sostanza. Questo è un progetto che stiamo facendo, replicare in 8 città del Mezzogiorno a partire da alcune filiere produttive esattamente quel modello lì, che significa poi fare incubatore d'impresa e formare soprattutto lavoro qualificato. Ecco, di questo dovremmo discutere. E vede, si è detto che eravamo in ritardo con l'Europa. La verità è che l'Italia non è in ritardo con l'Europa, come dice la stessa Commissione su questo. L'Italia è in ritardo con se stessa, perché noi con questo recovery abbiamo l'opportunità di sciogliere nodi irrisolti da anni, di colmare investimenti che non abbiamo fatto nel corso di questi anni. E la discussione che dovremmo fare non è al nostro interno, nel governo, appunto per piantare le bandiere, per porre... Che è quello che fa Renzi, dice lei. Renzi tenta di piantare bandiere. Dovremmo discutere con l'Italia, con le imprese, con i sindacati, Diciamo, abbiamo già Orban a mettere a fare da intralcio, evitiamo che lo faccia anche qualcuno all'interno della maggioranza. In 30 secondi, Ministro, un suo giudizio sullo sciopero che ci sarà dopo domani degli statali, perché ne parliamo tra un attimo. Io credo che queste ore vadano impiegate anche nel governo, l'ho detto in consiglio dei ministri, per evitare questo sciopero. Noi abbiamo si evita mettendo altri soldi, costruendo un percorso. Il governo ha già messo dei soldi che sono ritenuti insufficienti dai sindacati. Si evita riprendendo un dialogo che è essenziale in questo momento, perché è una fase in cui il paese ha bisogno di una grande coesione sociale, e la coesione sociale si realizza anche con i lavoratori, e questo non ce lo possiamo dimenticare. Grazie Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la coesione territoriale. Buona giornata, una pausa e poi appunto parliamo di sciopero degli statali. Buongiorno, Serena Sorrentino, segretaria generale della Funzione Pubblica della CGIL. Buongiorno, benvenuta, eccoci. Buongiorno. Allora, lei potrà immaginare cosa scrivono i nostri ascoltatori al pensiero che voi scioperiate come Funzione Pubblica, come pubbliche amministrazioni nella giornata di mercoledì. Molti dicono, ragazzi, qua ci sono categorie che stanno soffrendo questa crisi in maniera brutale. Qua abbiamo i dipendenti pubblici che non hanno perso un giorno di stipendio e che protestano perché dal rinnovo del contratto mancano quanto 400 milioni, se non vado errato, Sorrentino? No, mi dispiace, però questa è una ricostruzione che non corrisponde alle ragioni per le quali abbiamo proclamato lo sciopero. Intanto vorrei dire che io sono proprio d'accordo con quelli cittadini, anche lavoratori, che in queste ore stanno dicendo questo sciopero andrebbe evitato. Andrebbe evitato, ma la responsabilità non è delle organizzazioni sindacali. È un anno che noi chiediamo al governo di aprire un confronto sul tema della pubblica amministrazione. Noi abbiamo detto che per noi era fondamentale dare una risposta in queste ore di carattere molto, ma molto diversa al tema delle assunzioni e della stabilizzazione dei precari nelle pubbliche amministrazioni. L'Unione Europea ha anche condannato il nostro paese per l'abuso di contratti a termine nella pubblica amministrazione. Sono 350.000 i precari per i quali non si prevede nessuna stabilizzazione. Vorrei ricordare agli ascoltatori che tantissimi di quelle lavoratrici e lavoratori che ci hanno salvato la vita durante la pandemia, e cioè i 36.000 lavoratrici e lavoratori della sanità che sono stati assunti con la causale Covid, noi chiedevamo che almeno avessero l'opportunità di essere stabilizzati, e invece nella legge di bilancio c'è una semplice proroga di ulteriori 6 mesi o un anno del loro contratto. Quindi il primo punto per noi importante è l'occupazione nella pubblica amministrazione. Nei prossimi 2 anni usciranno dalle pubbliche amministrazioni 250.000 lavoratori per pensione, che si sommano ai 200.000 che sono usciti negli ultimi 2 anni. Quella è una reale opportunità di occasione buona di lavoro per tanti giovani e competenze nel nostro paese. Il secondo punto che abbiamo messo all'ordine del giorno è quello della sicurezza. Tra le categorie di lavoratori che più si sono ammalati per il Covid, ovviamente ci sono i lavoratori pubblici, che non possiamo sintetizzare nella parola statale. La maggioranza del lavoro pubblico è quello che sta in sanità, negli enti locali, nel comparto soccorso, sicurezza, difesa. Noi abbiamo bisogno di andare a rivedere i protocolli che abbiamo sottoscritto durante la prima fase della pandemia, perché se le persone che ci devono curare si ammalano, noi avremo sempre meno servizi. Il terzo punto è anche quello del contratto. Sì. Però mi permetta di dire solo una cosa. È stato tradotto con i sindacati, non si accontentano degli aumenti. Sbagliato. Noi stiamo chiedendo al Ministro della Pubblica Amministrazione di fare un confronto sul fatto che questo contratto deve fare la riforma del sistema professionale dei lavoratori. Se non lo facciamo, è inutile che poi discutiamo di innovazione, quindi, di implementazione. Quindi mi scusi, quindi la cifra messa in campo potrebbe anche bastare a fronte di tutto questo? Dipende da come usiamo quelle risorse e finalizzate a fare cosa. Oggi i lavoratori prendono Sorrentino, le posso chiedere una risposta netta su questo? Sì. Potrebbe bastare quella cifra del governo nel caso venissero messe in campo tutte queste altre questioni che state mettendo, questa cifra per il rinnovo del contratto? Noi abbiamo sempre detto al governo in queste ore che quello che noi non vogliamo è che si tolgano soldi dalle buste paga che oggi percepiscono i lavoratori. Se il governo non trova risorse aggiuntive per finanziare l'elemento perequativo, che è quello che noi costruimmo nel 16-18 per evitare che i lavoratori perdessero il bonus degli 80 euro, e ricordiamo che quello va alle fasce economiche più basse, quelle che guadagnano meno di 1.300 euro. Mi scusi, quindi la parte economica, anche la parte economica è dirimente, cioè il fatto che il governo reperisca queste risorse per il contratto. Anche. Il governo ha scelto unilateralmente per quest'anno di metterci 400 milioni. Ed è una cifra che ha stanziato il governo su una legge di bilancio che vale 38 miliardi. Diciamo le cose così come stanno. Che quando noi sommiamo le cifre stanziate negli anni scorsi, dimentichiamo che quelle sono risorse già accantonate. L'anno scorso il governo ci ha messo 1,6 miliardi e adesso 400 milioni. E poi i dipendenti pubblici sono lavoratori, il datore di lavoro, in questo caso per un'anomalia, ma è la natura del rapporto pubblico, sono il governo e le amministrazioni centrali. Riconoscere un diritto a un lavoratore pubblico non ha alcuna contrapposizione con i diritti dei lavoratori privati, tant'è che anche i precari scioperano con noi il 9 dicembre. L'altra osservazione che viene fatta, Sorrentino, è uno sciopero, la dico proprio brutale anche questa, mercoledì 9, e quindi ponte con il 7, l'8 e il 9 a seguire. Beh, il 7 oggi è una giornata lavorativa, quindi se i lavoratori hanno scelto di fare ponte stanno utilizzando una giornata di ferie. Il 9 non è una giornata di riposo, non è neanche una giornata di permesso, è una giornata di sciopero, cioè i lavoratori rinunciano a quella retribuzione e lo fanno a dicembre. Vorrei ricordare di che cosa stiamo parlando. Un infermiere guadagna 1.400 euro e sta gestendo turni di lavoro che derogano qualsiasi norma sul riposo delle 11 ore previste dalle normative europee per garantire la nostra salute. A quei lavoratori lì, cosa dice il nostro paese? Che è giusto o non è giusto che venga riconosciuto loro il lavoro che stanno facendo? Sorrentino, a questa domanda deve rispondere il governo. Abbiamo veramente 20 secondi. Cosa si sente di dire alle molte persone che dicono a noi lavoratori del privato che rischiamo di perdere il lavoro quando finisce il blocco dei licenziamenti, e dipendenti a termine che l'hanno già perso, eccetera eccetera? Per noi questo sciopero è uno schiaffo. No, è per loro, perché noi garantiamo i servizi pubblici, perché i lavoratori del servizio pubblico sono quelli che consentono di erogare i ristori che il governo sta mettendo a disposizione, sono quelli che garantiscono il fatto che anche se un precario o un senza lavoro ha bisogno di assistenza e di salute, vai in un ospedale, vai in un sistema di assistenza territoriale e trova cure gratuite, perché abbiamo difeso in questi anni il sistema pubblico. Vorrei veramente che fosse chiara una cosa: questo sciopero non è per difendere i diritti di chi ce li ha già, questo sciopero è per aumentare i servizi nella pubblica amministrazione. E ripeto, il primo punto per noi è il piano per l'occupazione. La ringrazio, grazie a Serena Sorrentino, la segretaria generale della funzione pubblica CGIL, GR24, noi ci risentiamo domani mattina, un po' più tardi, alle 7:15. Una buona giornata, Simone Spezia, ciao.